Io, nel frattempo, osservavo il Balzac del barone. Non era un esemplare in brossura acquistato a caso come il volume di Bergotte che mi aveva prestato il primo anno. Era un libro della sua biblioteca e come tale recava il motto «Sono del barone di Charlieu», cui s'alternavano a volte, per proclamare le inclinazioni studiose dei Germain, «In proelis non semper» e un altro ancora «Non sine labore». Ma li vedremo, fra non molto, sostituiti da altri motti nel tentativo di piacere a Morel. Dopo un istante, Madame Cottard abordò un argomento che, a suo avviso, interessava più personalmente il barone. «Non so se la pensiate come me, signore», gli disse, «ma io sono di vedute molto larghe e, a mio avviso, a patto che le si pratichi sinceramente, tutte le religioni sono buone. Non sono come certa gente che la vista di un protestante rende idrofoba. A me hanno insegnato che quella vera era la mia», replicò il signor di Charlieu. «È un fanatico», pensò Madame Cottard. «Sua Anna, a parte gli ultimi tempi, era più tollerante, però è anche vero che si era convertito». In realtà, non solo il barone era cristiano, come si sa, ma aveva una sua devozione d'impronta medievale. Per lui, come per gli scultori del XIII secolo, la Chiesa cristiana era, nel senso vivo del termine, popolata da una folla d'esseri ritenuti affatto reali, profeti, apostoli, angeli, santi d'ogni specie attornianti il Verbo incarnato, la madre di lui, il suo sposo, il Padre Eterno, tutti i martiri e i dottori, proprio come la loro folla si pigia a tutto rilievo nei portici o gremisce le navate delle cattedrali. Fra tutti loro, Charlieu aveva scelto come patroni intercessori gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, con i quali si intratteneva di frequente perché trasmettessero le sue preghiere al Padre Eterno, davanti al cui trono essi hanno dimora. L'errore di Madame Cottard mi procurò così un grande divertimento. Per lasciare il terreno religioso, dirò che il dottore, venuto a Parigi con il magro bagaglio di consigli di una madre contadina, poi assorbito dagli studi, quasi esclusivamente materiali, cui chi vuole portare molto avanti la carriera medica è costretto a consacrarsi per un gran numero d'anni, non si era mai coltivato. Aveva acquistato maggiore autorità, ma non maggiore esperienza. Prese alla lettera la parola onorato e ne fu al tempo stesso soddisfatto perché era vanitoso e afflitto perché era buono d'animo. «Quel poveraccio di Charlieu», commentò la sera con la moglie, «m'ha fatto pena quando ha detto che era onorato di fare il viaggio con noi. Si capisce, povero diavolo, che non ha relazioni, che si umilia». Ma presto, indipendentemente dalla guida della caritatevole Madame Cottard, i fedeli riuscirono a dominare l'imbarazzo che tutti, dal più almeno, avevano inizialmente provato trovandosi accanto al signor di Charlieu. In sua presenza, certo, non smettevano di rimuginare dentro di sé il ricordo delle rivelazioni di Schi e l'idea della stranezza sessuale insita nel loro compagno di viaggio. Ma quella stessa stranezza esercitava su di loro una specie di fascino. Grazie ad essa, la conversazione del barone, comunque notevole, ma per aspetti che essi potevano ben poco apprezzare, assumeva per loro un sapore che, in confronto, faceva apparire un po' scipite anche le conversazioni delle persone più interessanti, compreso lo stesso Brichot. Sin dall'inizio, d'altronde, ci si era compiaciuti di riconoscere che Charlieu era intelligente. «Il genio può confinare con la follia», sentenziava il dottore. E se la principessa, avida di istruirsi, insisteva, lui non aggiungeva una sillaba, giacché quell'assioma era tutto quanto sapesse sul genio, e d'altro canto non gli sembrava dimostrato con la stessa sicurezza di quanto concerne la febbre tifoidea e l'artritismo. E poiché era diventato superbo ed era rimasto maleducato, Niente domande, principessa, non mi chiedete nulla. Sono al mare per riposarmi e poi non mi capireste, non sapete niente di medicina. E la principessa taceva, scusandosi, perché trovava Cotard affascinante e capiva che le celebrità non sono sempre accessibili. In quel primo periodo, dunque, avevano finito col trovare il barone intelligente, malgrado il suo vizio, o ciò che generalmente viene chiamato così. Adesso, senza rendersene conto, era proprio per quel vizio che lo trovavano più intelligente degli altri. Anche le massime più semplici che Charlot, abilmente provocato dall'universitario o dallo scultore, enunciava sull'amore, la gelosia, la bellezza, acquistavano per i fedeli, a motivo dell'esperienza singolare, segreta, raffinata e mostruosa cui egli li aveva attinte, il fascino dello straniamento che una psicologia analoga a quella offertaci da sempre dalla nostra letteratura drammatica riveste in una commedia russa o giapponese recitata da attori di laggiù. Quando lui non sentiva, s'arrischiava ancora qualche battuta di cattivo gusto. «Oh!» bisbigliava lo scultore vedendo un giovane ferroviere con lunghe ciglia da bayadera sul quale Charlot non era riuscito a non puntare lo sguardo. «Se il barone comincia a strizzare l'occhio al controllore, non arriveremo tanto presto. Il treno si metterà ad andare a culo indietro. Guardate come lo sta fissando. Non siamo più su un treno ormai, ma su una funicolare». In fondo, però, quando Charlot non veniva, si era quasi delusi di viaggiare soltanto fra persone come tutte le altre, di non avere con sé quel personaggio imbellettato, panciuto e misterioso, simile a una scatola di provenienza esotica e sospetta, da cui sfugge l'indefinibile odore di frutti che alla sola idea di assaggiarli vi rivolterebbero lo stomaco. Da questo punto di vista, i fedeli di sesso maschile avevano soddisfazioni più vive nella breve parte del percorso fra Saint-Martin-du-Chêne, dove saliva Charlot, e Doncières, stazione dove li raggiungeva Morel. Infatti, finché non c'era il violinista, e se le signore e Albertine, facendo gruppo a sé per non disturbare la conversazione, rimanevano discoste, Charlot si lasciava andare, perché non si pensasse che evitava certi argomenti, a parlare di quelli che convenzionalmente si chiamano i cattivi costumi. Albertine non gli creava imbarazzo perché stava sempre con le signore, con la grazia di una fanciulla che non vuole, con la sua presenza, limitare la libertà della conversazione. Io sopportavo di buon grado di non averla accanto, a condizione però che rimanesse nello stesso scompartimento. Mentre infatti non provavo più alcuna gelosia e quasi nemmeno, si può dire, alcun amore per lei, né pensavo a quel che potesse fare nei giorni in cui non la vedevo, in compenso, quando ero lì, non potevo sopportare una semplice parete che a rigore avrebbe potuto dissimulare un tradimento. E se Albertine andava con le signore nello scompartimento vicino, dopo un istante, non riuscendo a trattenermi, a rischio di offendere chi stava parlando, Brichot, Cotard, Charlot, cui non potevo spiegare la ragione della mia fuga, mi alzavo, li piantavo in asso e passavo di là per vedere che non vi stesse succedendo niente di anormale. Fino a Doncières, senza paura di scandalizzare, Charlot parlava, a volte assai crudamente, di costumi che dichiarava di non trovare per conto suo né buoni né cattivi. Lo faceva per astuzia, per mostrarsi di larghe vedute, sicuro com'era che i suoi propri, di costumi, fossero praticamente esenti da ogni sospetto nella mente dei fedeli. Non ignorava, si intende, che nell'universo alcune persone erano, secondo un'espressione destinata a diventargli poi familiare, fissate sul suo conto. Ma si figurava che tali persone non fossero più di 3 o 4 e che nessuna di loro si trovasse sulla costa normanna. Un'illusione siffatta può sorprendere da parte di un uomo così fine, così inquieto. Anche riguardo a coloro che riteneva più o meno informati, si illudeva che non lo fossero che in modo assai vago e aveva la pretesa, dicendo loro una cosa piuttosto che un'altra, di stornare da una determinata persona i sospetti di un interlocutore al quale per cortesia fingeva di accettare le sue affermazioni. Pur immaginando ciò che io potevo sapere o supporre di lui, si figurava che questa mia opinione, da lui ritenuta assai meno recente di quanto non fosse in realtà, rimanesse affatto generica e che gli sarebbe bastato negare questo o quel particolare per essere creduto, mentre al contrario, se la conoscenza dell'insieme precede sempre quella dei particolari, essa facilita immensamente lo studio di questi ultimi e, distrutto ogni potere di invisibilità, non consente più al dissimulatore di nascondere quel che gli pare. Certo, quando il signor di Charlot, invitato a pranzo da questo o quel fedele o amico dei fedeli, escogitava le perifrasi più complicate per piazzare fra i nomi di 10 persone che citava il nome di Morel, quasi non si rendeva conto che alle ragioni sempre diverse cui egli attribuiva il piacere o la comodità che avrebbe tratto dall'essere invitato, quella sera, assieme a lui, i suoi ospiti, mostrando di credergli in tutto e per tutto, ne sostituivano una sola, sempre la stessa, di cui egli li credeva all'oscuro, vale a dire che lo amava. Così, Madame Verdurin, sempre con l'aria d'accogliere integralmente i motivi per metà artistici, per metà umanitari con cui Charlot spiegava il proprio interesse per Morel, non cessava di ringraziare il barone per i suoi toccanti gesti di bontà, come diceva commossa la padrona, nei confronti del violinista. Ora, quale non sarebbe stato lo stupore di Charlot se un giorno che Morel e lui erano in ritardo e non erano venuti col treno, avesse sentito Madame Verdurin esclamare «Mancano solo quelle due signorine!» Il barone sarebbe rimasto tanto più stupefatto in quanto, non allontanandosi quasi più dalla Raspellier, vi figurava come una sorta di cappellano, di abate da commedia, e qualche volta, quando Morel aveva 48 ore di permesso, restava a dormire 2 notti di seguito. Madame Verdurin allora li sistemava in 2 camere comunicanti e, per metterli a loro agio, diceva: «Se avete voglia di fare un po' di musica, non fatevi scrupolo. I muri sono come quelli di una fortezza. Non c'è nessuno al vostro piano e mio marito ha un sonno di piombo». In quei giorni Charlot dava il cambio alla principessa andando a prendere i nuovi ospiti alla stazione e, per giustificare l'assenza di Madame Verdurin, forniva una descrizione così efficace del suo precario stato di salute che gli invitati entravano con una faccia di circostanza e lanciavano un grido di stupore vedendo la padrona arzilla in piedi con un abito un po' scollato. Il signor di Charlot, infatti, era momentaneamente diventato per Madame Verdurin il fedele dei fedeli, una seconda principessa Scherbatov. Della sua posizione mondana, la padrona era molto meno sicura che di quella di lei, figurandosi che se la principessa vedeva esclusivamente il piccolo clan, era perché lo prediligeva e disprezzava qualunque altro ambiente. Poiché questa era la finzione tipica dei Verdurin, avvezzi a trattare da noiosi coloro che non potevano frequentare, è incredibile che la padrona potesse scorgere nella principessa un'anima d'acciaio che detestava il bel mondo. Lei comunque non desisteva ed era convinta che fosse una sincera passione intellettuale a tenere anche la grandama lontana dai noiosi. Il numero di costoro, del resto, diminuiva nei confronti dei Verdurin. La vita balneare eliminava da una presentazione le conseguenze per il futuro che si sarebbero ottenute a Parigi. Uomini brillanti, venuti a Balbec senza le rispettive mogli, il che rendeva tutto più facile, alla Raspellier, si mostravano intraprendenti e da noiosi si trasformavano in squisiti. Fu questo il caso del principe di Guermantes, che l'assenza della principessa non avrebbe tuttavia indotto a fare una visita da scapola ai Verdurin se la calamita del dreyfusismo non fosse stata così potente da fargli superare d'un sol balzo le pendici che portano alla Raspellière, un giorno purtroppo in cui la padrona era uscita. Madame Verdurin, del resto, non era affatto sicura che lui e il signor di Charlieu appartenessero allo stesso mondo. Il barone aveva detto, è vero, che il duca di Guermont era suo fratello, ma si trattava forse della menzogna di un avventuriero. Benché si fosse mostrato così elegante, così amabile, così fedele verso i Verdurin, la padrona esitava quasi a invitarlo assieme al principe. Si consultò con Ski e con Brichot. Il barone è il principe di Guermont. Pensate che vada? Mio Dio, signora, per uno dei due credo di poter affermare. Uno dei due, cosa volete che mi importi? S'era spazientita Madame Verdurin. Vi ho chiesto se possono andare insieme. Signora, non è facile saperle queste cose. Madame Verdurin non ci metteva nessuna malizia. Era ben certa dei costumi del barone, ma nell'esprimersi così non ci pensava affatto. Voleva soltanto sapere se si potessero invitare insieme il principe e il signor di Charlieu, se avrebbero quagliato. Non c'era nessuna intenzione malevola da parte sua nell'uso di espressioni già fatte e predilette dai piccoli clan artistici. Per pavoneggiarsi del signor di Guermont, voleva portarlo, il pomeriggio successivo alla colazione, a una festa di beneficenza, dove alcuni marinai della costa dovevano simulare la partenza d'una nave. Ma non avendo il tempo di occuparsi di tutto, delegò le sue funzioni al fedele dei fedeli, al barone. Capite? Non devono starsene lì fermi come le belle statuine. Bisogna che vengano, che vadano, che ci sia confusione, insomma, tutte quelle cose, non so come si chiamino, ma voi, che andate spesso al porto di Balbec Plage, potreste fargli fare una prova senza stancarvi. Ne sapete certo più di me, voi, barone, su come far trottare dei marinaretti. Ma in fondo ci stiamo dando un bel da fare per quel signor di Guermont. Forse non è che un imbecille del jockey. Oh, mio Dio, sto parlando male del jockey. E mi sembra di ricordare che siate uno di quelli. Barone? Non mi rispondete. Siete di quelli? Non volete uscire con noi? Tenete, ecco un libro che m'hanno mandato, penso che vi interesserà. È di Rougeon. Il titolo è carino. In mezzo agli uomini.